prova, oh, oh, prova, oh, oh, ora, prova, oh, oh, 1, 2, 3, prova, oh, prova, oh, oh, oh, prova, ora, prova, oh, oh, oh, oh, oh, prova, oh. 1, 2, 3, prova, oh, oh, prova, oh, oh, la prova, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, prova, oh, oh, ora, ora, ora, prova, ora, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ora, ora, prova, oh, oh, prova, ora, ora, ora, oh, oh, ora, oh, oh, prova, ora, oh, prova, oh, oh, oh, oh, prova, prova, prova, 1, 2, 3, prova, oh, oh, oh, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ora, ora, oh, oh, 1, 2, 3, prova, oh, oh, prova, prova, prova, ora, ora, ora, prova, ora, prova, prova, prova, oh, oh, oh. Facendo scanner sui canali e ho sentito tu che chiamavi adesso. Poi mi hai fatto togliere l'ascolto per chiamare il fondo scala. Ma se mi stava io non l'ho sentito Marcolino, me l'ha detto Manuele. No, prima ho sentito Manuele che chiamava un qualcuno che non ho capito chi era e io ho detto chi c'è qua, poi non ho sentito risposta, allora stavo facendo spazzolata sui 40 normali, 40 sopra e 40 sotto, poi sono tornato qua, sempre con lo scan. E ho beccato te che dicevi, forse in macchina, vediamo se c'è Marcolino. No, no, sono a casa stasera, sono uscito in moto poco fa a fare una piccola spesa. La moto sì che mi sarebbe servita, maledizione. Vabbè. è andata così. Ti volevo far vedere il computerone che mi son fatto, cazzo, e tu mi dico mamma tua. Ma infatti per quello ti ho detto se potevi scendere un attimo, io salire no, poi lì a mamma mia a trovare un parcheggio lì era un incubo, non puoi manco fermarti lì perché blocchi già la corsia. Ciao anche a Manuele, se ancora l'ascolto. Ciao Marco, lì ben sentito, non so se mi ascolti. Sì, allora sto usando uno Smith a cristalli liquidi e sì, Santiago 7, quindi è buono. E la radio com'è? Bassa? No, la radio è ottima e abbondante. Andare, te la vedo un'altra là sotto il letto, già va bene, dai. Perché te la metti sotto il letto? Paura che ti scoprano, hai. Mettila in punta al campanile, non lo so. No, se va per il freddo, la carico, se ho paura che mi scoprano. Fai di cosa? Io la posso mettere dove voglio. Ma siccome te la mettere saluta, li metterà sul campanile. E tu hai paura che prenda freddo, l'antenna la metto sotto il letto, per quello. Allora dentro il letto, proprio dentro, sotto le coperte, così si rimane calda. Sì, vabbè, una volta ci va bene Marco, lì una volta mi faccio sentire. Sì, ascolta, ma tu sei a casa dei tuoi, tipo dei tuoi genitori, cioè di proprietà o in affitto? Perché può darsi pure che un giorno cambi casa, che poi è una zona anche migliore, che magari non hai condominio dei rompi scatole e puoi mettere quello che vuoi. Prima ero in casa dei miei, adesso da 5 anni in poi ho cambiato casa e quindi sono in un condominio, capito? E diciamo, Manuele, diciamo in un condominio particolare a quanto ho capito, perché qua siamo in condominio, però la gente è civile, dai, diciamo, sì, è civile qua, cioè non succedono le cose che succedono magari lì in zona lì, che metti l'antenna e la tirano giù, roba del genere, o gli sparano, roba del genere. Qua siamo al Bronx, Marco, lì, siamo al Bronx qua, E vabbè, Manuele, ma se dovesse succedere tu, a quanto ho capito, già ti puoi difendere bene, gli puoi dare pan per focaccia, ci siamo capiti. Sì, ma non mettere, guarda, sinceramente non ho più voglia di tanto succedere con nessuno, Marco, perché non mi interessa, perché a parte per la frequenza che c'è non vale più la pena stare lì, a fare, di spare, ci vogliono un 44 metri di cavo qua, volendo mettere la terra. Qua è lo stesso, io ci avrò 50 metri, dovrei averli misurati bene, 50 sono abbondanti pure, arriva giusto in camera mia, se la dovessi allungare tutto arriva in camera da letto il baracchino, però in camera da letto mia non c'ho troppa roba, non va bene, c'ho questi gatti che fanno cadere tutto, distruggono tutto, è meglio che là non ne metta. No, ma io non c'ho più voglia di stare lì dietro a queste cose qua, a parte per il lavoro che faccio, cazzo, mi metto a stare lì, uscendo dal lavoro, mi metto a fare queste cose qua dopo, ma neanche per idea. Sì, anche Natalino ha un vicinato di tutto rispetto, Natali? Io sono sempre con l'elmetto in testa. Con l'elmetto? Sei pronto alla guerra? Cosa c'hai, anche i sacchi di sabbia alla finestra? Non si sa mai, ti dà qualche fucilata da fuori. Cazzo, l'hanno presa con la telecamera esterna, amico. Fatemi da crack. Ma dimmi tu, gente di merda. Ascolta, ma c'è ancora quello di sopra, quello che faceva i danni all'antenna, o se n'è andato? No, c'è ancora, quello di sotto invece è morto, l'hanno trovato morto a casa sua, perché se n'è scappato dall'ospedale, l'è giunto a che cosa era ciappato lui? Ma c'è la televisione, dato che se me li esauri, mi se vedi. Sì, si sente molto. Ah, poi Natali, ho chiesto a Gianni di ricordarmi che antenna era quella che aveva presa lui, è tipo la mia, 1,5 metri, la mia è 1,60 massimo, e se la alzi tutta, tarandola, 1,5 metri, e c'ha la bobina a vista però rende bene. Mentre io ne ho avuta una gemella, la mia, marcata Telecom, sembrava uguale, no? Marcata Telecom, eppure perdevi un Santiago, te l'immagini? Facillo che non finisco. Cosa? Ah, vai, stai zitta. Ah, cosa vuoi, ti rispondo a Mari? Abbassa la TV. Vado. Come sei dispotico. Zitta, zitta donna, o ti frusto? Natali, mica ti taglia quella cosa lì, mi te la fa trovare in un bicchiere d'acqua, mi, al vicino a un comodino. Ma te ne immagini questa donna? Adesso faccio come i musulmani, mi. Fai la brava. Vabbè. E non sono solo i musulmani, un po' di gente occidentale tratta male le mogli. Poi vabbè, certe magari chi più chi meno se lo merita, qualcuno magari se la cerca pure, non dico che se lo meriti, però hai visto queste donne ammazzate? Se tu vuoi vedere cosa c'era dietro, magari questa continuava a provocare, cioè vedeva che il marito magari era al limite, però certe continuano a provocare, sapendo quali saranno le conseguenze, però saranno che quando il marito esplode magari gli fa pure del male, eppure continuano finché arrivano al punto di rottura, che magari ne leggiamo tante, no? Che quello ammazza la moglie, i figli. Cioè non sanno quando fermarsi, capito, certe donne. Immagino anche certi uomini, però così è. Manuel, riprendi. Un attimo, lo sto aspettando. Riprendi tu con Natalia, già posto. Ehi, capito Natalia il discorso? Sì, già l'ho capito, infatti adesso non so se ammazzarla adesso o dopo questa qui. Meno male che ci scherziamo noi. Comunque è vero, mi certe continuano e ci danno dentro finché ti portano all'esasperazione. Ma è bello che lo sanno le conseguenze quali possono essere. Eppure, a un certo punto peggio per loro, cioè non è solo l'uomo che passa poi per mostro. Bisogna vedere cosa c'era dall'altra parte, che tipo di comportamento, cosa ha fatto dietro. E la verità sta nel mezzo, dai, come sempre. E infatti, continuano a provocarti, poi uno esplode e non si controlla più. E io cosa t'ho detto l'altra volta? Che la donna non è nata dalla costola di Adamo, è nata dalla costola del diavolo, capito? È nata per rovinare la vita all'uomo. Ma io l'ho sempre detto, che cavolo Adamo, da Belzebù è nata la donna. Ui, ui. Cazzo, chi sei amica di Satana, la femmina? Non venuta arrivare. D'altronde si dice anche che la donna ne sa una più del diavolo. È detto tutto, mi. E io lo credo, sei amica Zoia. Chi sa riesce a putti puro al diavolo. Eia, ti vedo pimpante, Natalia, stai un po' meglio oggi, stasera. Sì, un po' mi è calmato, perché mi ho preso il gruffo in me. Perché ogni tanto mi viene questo dolore, ma più di quel tanto non ne posso prendere. O sai che mi intossicheggia questa cosa. So come un rudimentimi. Vabbè, tu segui la posologia. L'importante è non esagerare troppo, cioè prenderne tante al giorno, quella è l'overdose. Ma lo sai che una volta a me il brufen mi faceva male, non so, avevo preso un colpo, un bel colpo avevo preso. Mi ero preso il brufen, però avevo preso in coincidenza qualcos'altro, che non mi ricordo cos'era, se era un bicchiere di birra o cos'era. Fatto sta che mi ha fatto un effetto di droga, mi sentivo questa specie di estasi, ero proprio al settimo cielo, ero fatto, ma non per, cioè con volontà l'ho fatto, era un effetto inaspettato. Me lo posso immaginare. Va, piglia due impugni di birra, che mi prendo un altro di queste, così ero manco in mano all'orbita. Ti sentivi questa sensazione estrema di, sai quando vengono prodotte le endorfine, di benessere, mi. Ho detto, a cosa ci siamo? E forse, sai, io certe volte pranzando, magari raramente, un bicchiere di birra limone me lo bevo, però unito a quella roba lì, e può darsi che faccia, anzi sicuramente fa l'effetto non voluto, ho voluto, dipende da chi lo prende. Sì, infatti. Gatta, l'altra volta è caduto Adriano e si è fatto male al ginocchio, poverino. Cazzo, ne l'ha dato una di Brufen. Dice, una fucilata, mi è passato subito il dolore, ha detto, non credevo che era così potente. È potente, ma ragione. Io temo a pigliarlo. Prima di colpo mi passava come me la prendevo, subito mi... Adesso invece ci metti di più perché deve essere che si è assuefatto il fisico, mi... e mi fa quell'effetto lì, ci mette un po' di più a fare effetto. Adesso mi è passato un po' il dolore. Sì, infatti appena diciamo ti passa questa cosa qua che ti è venuta, devi eliminarlo, dai, perché danno la sua fazione a lungo andare. Il Brufen, vabbè, non è tanto brutto, è in America quando prendono il Vicodin, o peggio ancora l'idrocodone, l'ossicodone è più potente, ma è, quella è droga, vera droga, ma per quella la danno per, come dire, gravi patologie, tipo dolori terminali per chi ha cancro, per ossa rotte, cioè gente che urla, capito? Va bene. E non è entrato nessun altro stasera, no? Io sto usando il presidente McKinley, era fermo da un bel... quello lì ti puoi mettere in macchina. Ma mi avrei messo il coso, mi avrei messo il... come si chiama? Quello che abbiamo detto l'altro giorno. Il 3009. E ti ricordi cosa ti avevo mandato? Sì. Ti avevo mandato quelle foto, no? Ho preparato, fatto già i buchi per la staffa, no? Perché lì non c'erano, capito? Sì, lì buchi canali, no? Ed è omologato, guarda. Quando vedono che non funzionano è omologato, se te lo dovessero controllare. Poi la si controlla, va, non ce n'è controllo. Sì, ma poi guarda, per una volta ogni morte di papa basta un qualsiasi omologato, 4 watt, basta che esca di radio, dico, perché se ti omologati tipo il Polmar non uscivano di radio, cioè quelle in macchina non ti sentono, e quello è un problema. Guarda, il peggiore che abbia mai provato il Polmar, come si chiamava? Polmar? Va, ho preferito dimenticarlo. Sì, anche io me ne sono dimenticato, ce l'ho qui, ma no, non ne vale la pena. Ma che vuoi che ti dica? Hai notato che... è venuto bene, gatta, dal... capito. Qui metti il 3009 e c'è un signore. I testimoni con cui ho parlato... senti bene e trasmetti bene. Alla finestra, al secondo piano... quando esci in macchina. Aiuto, ma purtroppo... ci lasci la staffa proprio attaccata, via. Lo avviti e stai andando. Ah, dici di lasciare la staffa avvitata e usare i pomelli solo per attaccare l'apparato. Si può fare così. Se non fosse che a me piace cambiare apparato, cioè, lo sai, ne ho tanti, no? Voglio vedere, per esempio, che fischia, che non fischia. C'erano degli apparati che in macchina non andavano bene, innescavano. E non so se fosse un rientro di RF, se lo era non capivo da dove passava, se passava dal cavo di alimentazione, se passava dal cavo microfonico, comunque qualche rientro c'era perché fischiava. Ma certi andavano bene invece, vedi, certi apparati molto simili, vedi, 7009, fischiava, il 7009 no. E vedi, uno di quelli ti puoi mettere, e basta che vada bene in macchina, un 3009, è che è troppo barragione il 3009, capito? Cazzo, io ce l'avevo tutta mai, ma mi si è rotto, era troppo bello quello lì. Hai notato oggi che non c'è la propagazione estrema sul canale 11, sul 9, tutti quelli americani là e anche gli altri canali, c'è propagazione inesistente, massissima, anzi non ce n'è proprio. Sì, vuol dire si è chiusa. Cazzo, c'ho uno schermo qua mostruoso da 27 pollici per il computer. L'hai terminato? Ma anche da video, no? Da venerdì mi doveva arrivare, non è arrivato nulla ancora. Dice in consegna c'è scritto, ma non mi è arrivata ancora. Devo mettere solo la scheda video e il pannello per avere le USB davanti e le cuffie e il microfono. È un capo, mi deve arrivare. Questo è fatto, lo sto usando. Solo che la scheda video della scheda madre sta usando. Ho messo un processore Ryzen della serie 5, il 5600G, che è 6 core 12 thread, ho 16 giga di RAM e va benissimo, è velocissimo, l'SSD c'ho dentro, poi un altro disco da 2 tera, adesso ne devo mettere un altro che ce l'ho da 500 per mettermi Linux, e lui è un signore. Almeno ce l'hai nuovo, moderno, eccetera. Non uso più Windows, mi ha rotto le palle. Non ne voglio più perché uso pesano. Lo cancello Windows. Ci sono i barasoni, se li devi portare in assistenza pesa una tonnellata. Mi ricordo quando me lo portavo sotto braccio, poi ci avevo aggiunto le dischiere, la scheda di acquisizione video per copiare da videocassette, da videocamere mini DV, oppure 8 mm, tutta quella roba lì. Era bella piena. Ci avevo messo anche una scheda strana che a cosa serviva? Serviva a leggere, ti dovrei far vedere una foto per capire. Hai presente quei modem telefonici fatti a wafer card, a scheda? Stiamo parlando del 2G, credo, del 2G stiamo parlando. E praticamente in questo computer potevo inserire questa scheda dietro e faceva da modem UMTS, mi pare si chiamasse, vabbè, devo vedere, era della Vodafone, sì, e mi permetteva di navigare anche se a velocità veramente demenziali rispetto a oggi. E beh, lo so, grazie a questo la scheda madre ha due antennine e va anche con la wifi, volendo. Attivatami, solo che sono, ne ho due computer, c'ho quello vecchio che adesso è funzionante, quello vecchio, questo me l'ho fatto in previsione che mi rompano le balle con Windows 11. Scappa. Ascolta, il sistema operativo cos'è per adesso? Cos'hai messo, hai detto? Ah, Windows 10 Pro. Windows 10 Pro. In difesa della principessa. Ho fatto delle chiavette avviabili, paurose. Tu spegni il computer, no? Metti la chiavetta nella cosa USB, o accendi e parte direttamente la chiavetta e ti installa Windows 10. E ci sono tutti i Windows 10 che puoi mettere, lo scegli tu, no, quale vuoi metterti. E sono paurose quelle chiavette. Sì, io ho fatto una cosa simile, però non roba da installare, roba che praticamente veniva caricata sulla RAM, erano sistemi operativi da lanciare da chiavetta o da CD, e tu li avviavi, te li caricava sulla RAM e tu provavi il sistema operativo senza averlo installato, capito? Roba tipo Linux, sì, Linux, le varie distribuzioni dell'epoca, adesso non faccio da tanto, tipo Ubuntu oppure KDE, tutte quelle menate là che non mi ricordo manco cosa siano. Funzionava comunque, da. Poi se decidevi di installarlo ti partizionavi un hard disk in due parti, oppure ci avevi un hard disk secondario, ti facevi il dual boot e sceglievi di partire o in Windows oppure Linux, per far pratica, perché io sono abbastanza scarno di conoscenza di Linux. Cosa ti volevo dire? Di Windows 11 c'è stato recentemente, pochi giorni fa, un aggiornamento tremendo che ha bloccato un bel po' di computer. ciao, ciao, sento suonare il clazzo. Capito, c'è stata una giornata tremenda, ha bloccato, ha incasinato un computer. E secondo Windows il primo impatto che ti dice è che loro non hanno riscontrato il problema, sempre così. Allora devono fare l'aggiornamento per riparare all'aggiornamento. Guarda, un bordello sta diventando. E infatti, Marco Lì, è uscito questo Linus Zurin che tu non ti accorgi di niente, sembra che sei su Windows. È uguale a Windows. Ed è Linus Zurin, si chiama. Adesso devo cercare di mettere quell'altro disco da 500 dentro e mi metto Linus, che poi sono pirla, amico, quella scheda madre che ho io, puoi mettere due dischi M2 addirittura. Sì, sì, sì. E beh, se lo spazio c'è, lo puoi fare. E ti metti il sistema, il secondo sistema operativo lì, se non vuoi dividere la rischia che hai già. Capito? Viene. E secondo come va? E adesso sto usando un SSD SATA, no? Però ci sono quelli M2, quelli piccolini piccolini, e ci sono due slot per metterli, ne vuoi buoni due di quelli lì, poi ho due slot liberi per mettere altri 16 giga di RAM e vado a 32 volendo, ma non c'è bisogno, bastano 8, ne ho 16, figurati, ce n'è in abbondanza. Sì, a voglia, a voglia. Sì, 8 sono il classico, 16, a meno che non debba far girare AutoCAD, quella roba lì, quelle cose pesantissime, non è bisogno. Tu non so se giochi col computer, magari non giochi nemmeno, quindi non hai bisogno di schede video super né di RAM stratosferiche. E adesso quando mi arriva quella scheda video vediamo un po'. No, io mi volevo mettere un simulatore di volo, gatta, e mi è sempre piaciuto a giocare con quello. E così avranno fatto quei beduini delle torri gemelle, mi hanno imparato così, la versione ufficiale che siano stati i beduini, capito? Però quella è la versione, dai. No, quelli sono andati a scuola di volo proprio. Ma talento sprecato. Tu hai visto quel casino in Russia, quell'attentato, 100 e più morti. Mamma mia, quella roba adesso non si sa per chi è stato veramente. Già Putin sta dicendo, no, non sono quelli dell'ISIS, saranno inviati dagli ucraini. Quello vuole far scoccare la scintilla per radere al suolo l'Ucraina e anche l'Occidente, che ovviamente si metterà in mezzo. Perché si metterà in mezzo? E oggi c'era un po' di alta tensione, non so, un missile ha sorvolato la Polonia, insomma i ferri corti sono. Sempre che questo attentato non abbia organizzato Putin proprio come scintilla per prendersela malamente contro l'Ucraina e la NATO questa volta, è da temeremi. Vabbè, lui non ha tutte le colpe, lasciamo perdere. Taggi chi sono? Li hanno arrestati tutti. E vabbè, quello lo dicono le notizie ufficiali, poi ricordati, Putin poi lui può credere a quello che gli piace a lui, cioè anche se sono veri dell'ISIS, veri, Taggi dice no, secondo me sono stati inviati dalla CIA, dalla NATO, da Zelensky, da Coso, dice ve la faccio pagare, ecco come la pensa lui, siccome è molto Coso lui, come dire, molto democratico, un altro. Cazzo, neanche a Berlusconi rispondeva al telefono, quando lo chiamava Berlusconi, lui non rispondeva, capito? Dice che Berlusconi ha detto, è cambiato totalmente, e puzza, c'era un agente segreto quello, era colonnello dei servizi segreti, in Germania Est, figurati. Sì, è vero, lui era all'inizio, proprio da giovane, mi pare fosse nella DDR, DDR, no, Germania Est, però non, io a quanto sapevo poi era passato al KGB russo, insomma si è avvicinato in zona eccetera. Ma possibile che lui abbia vinto tutti questi anni di elezioni, di libere elezioni? Ma tu ci credi che siano veramente libere elezioni? Che abbiano eletto sempre lui? Ma dai! No, non è che lui, è che tu quando entri a votare c'è il soldato col Kalashnikov dentro. O voti Putin o ti vadini pure. Ah, proprio col Kalashnikov spianato. O Putin o morte. O Siberia. No, Siberia è solo per i dissidenti, tipo Navalny, che poi ti fanno fuori ugualmente. Capito? Si avvelenano con la roba nucleare. Sì, col polonio, come quel, chi era un giornalista quello, si vedevano le foto di lui a letto d'ospedale, tutto glabro, no? Senza capelli, senza sopracciglia, mamma mia, non è una bella, vabbè, morte belle, non so se ce n'è, trombando, forse è una bella morte, tutte le altre sono brutte. Sì, infatti, quel cazzo di Putin, no, lui nella Germania... comunista, era già colonnello del KGB, lui era giovane nel KGB. Ma forse quella era quella, come si chiamava i servizi loro? La Stasi era. Ah, c'è un film bellissimo, Le vite degli altri, non so se l'ha mai visto, era ambientato in Germania dell'Est, vedevi i metodi di interrogatorio, i ricatti, come ti spiavano, ma cose allucinanti, ti riempivano ogni angolo, ogni pertugio della tua casa pieno di microfoni, di cavi, il cavo poi non ho capito se fosse l'antenna o l'alimentazione, tutto sotto traccia, tutto invisibile, ma una cosa allucinante. Sì, nella ex Germania comunista era così. La Stasi era la polizia segreta della Germania, però lui era del KGB, era proprio un russo. Capito? Non so come sia bene, perché anche lì erano, diciamo, Germania si era un po' staccata dalla visione proprio dell'Unione Sovietica, anche lì c'è stato uno scontro di opinioni, ecco. Sì, lo so, ma loro controllavano quello che facevano i tedeschi. E alla fine era tutto sovietico, mi sa, armi sovietiche, uniformi sovietiche, modo di fare sovietico. Sì, su cazzo, io se mi buci bene. Adesso hanno violato con quel missile lo spazio aereo della Polonia. Siamo messi male, l'ha fatto apposta lui. Allora ricordati, comunque vada, siamo rovinati. E se tutto va bene siamo rovinati. Sì, anche quello è un modo di dirlo, da. Però una situazione così brutta non ci voleva da... D'altronde, Natalia, abbiamo passato decenni e decenni senza guerre, tra virgolette, mondiali, no? Guerre grosse. Vabbè, a parte le solite cose in casa d'altri, no? Che noi dovevamo contribuire in quanto sudditi degli Stati Uniti. Secondo me l'unica colpa è quella degli Stati Uniti, sono dei maiali, quelli americani sono dei bastardi guerrafondai. Ah, poi però vedi, allora, preferenziare le guerre degli altri o degli amici, dei soliti, i soldi si trovano. Ma ho letto un coso della sanità, è come che stessero cancellando la sanità pubblica. Per esempio, per gli ospedali avevano stanziato, non so se quasi varie centinaia di milioni, quasi un miliardo di euro per tutti gli ospedali, per risanare un po'. Niente, nel silenzio più totale, perché i giornali non ne hanno parlato, l'hanno dirottati verso altre cose, questi soldi qua. A Giomai, dove vado io, mi hanno detto che il mio endocrinologo non può più prenotarmi le risonanze magnetiche, perché le prenotava lui, le facevo a distanza di pochi giorni, cioè fai 2 settimane di attesa e non le pagavo niente. Adesso, a quanto ho capito, mi devo pagare tutto io, risonanze. È come che stessero eliminando la sanità, piano piano, subdolamente, oggi ti togliamo una cosa, oggi te ne togliamo un'altra, tant'è che una delle infermiere ha detto, quelle che ci lavorano, ha detto, dice, sono cambiate tante cose, in peggio ovviamente. Ehi, io avevo dei medici a pranzo domenica e ci vogliono fare l'assicurazione perché siamo sabato. Ci vogliono fare l'assicurazione perché qua ti fanno pagare tutto. A me mi hanno fatto pagare gli esami del sangue 38 euro quando erano 15 prima a pagamento, e io non dovevo pagare niente perché sono esente, solo che se non vai a pagamento non te ne fanno. Poi l'attac non c'è posto, devo fare l'attac e non c'è posto. Ho provato ad andare da privati e non me ne possono fare perché c'è il contratto, solo in ospedale la devo fare. E costa 270 euro su Luisa, perché l'ha fatta Giulio a pagamento alle 9 di notte, mi l'hanno convocato e ha dovuto pagare 270 euro per un attacco. Vai a pagartele tu, ma dove te li togli i soldi? Guarda, secondo qualcuno di questi che parla di queste cose, comunque il decreto l'hanno fatto, questo di soldi dirottati altrove, cioè purtroppo va cercato, non so ma cosa cercare. Un decreto, come si chiama, questi soldi sì che servivano agli ospedali per tentare di risanare un po' la situazione, niente, non so, li avranno dirottati per le solite cose che vanno di moda adesso, guerre, altre cose. Ma cosa ti volevo dire? Aspetta che mi sfugge però. Ma ripeti l'ultima cosa che mi hai detto tu. Ah no, è cosa. Secondo me piano piano vorranno arrivare al sistema statunitense. Cioè che non ti danno un bel niente di sanità pubblica, te lo devi pagare tu o avere un'assicurazione che poi l'assicurazione ti copre parzialmente, lo sai. A seconda di quanto è l'importo, non ti copre nemmeno l'intera somma. E se non hai altri soldi, a parte quelli spesi per l'assicurazione, non te ne fanno le operazioni. E tutto un casino è nato lì. Noi vabbè, abbiamo conosciuto la parte, io da quando ho memoria, anni 70, tu ancora di più, ma le cose stanno peggiorando piano piano, tutto quanto, la sanità, la scuola, tutto. Vabbè, pazienza. Non so quante migliaia di medici mancano all'appello. E chissà cos'è. Ero curioso di vedere se funziona. Magari lì sì. Chi c'è, il vicino? È arrivato il vicino. E digli cosa ti ha fatto il Brufen al ginocchio. Ma l'hanno anestetizzato proprio, a due ginocchia. Vabbè, te hai anestetizzato, io un giorno l'ho preso, forse non ci ho badato, ho preso anche forse un bicchiere di birra a pranzo, a cena, e mi ha fatto un effetto droga, mi sentivi in estasi, sai quel benessere estremo, tipico delle endorfine, buono a sapersi comunque. Adesso lo dico a tutti i drogati che vengono qua, così prendono Brufen e birra. E se lo prendi con i superalcolici, guai. Guai, avvio. Vabbè, dai, ti devo lasciare, Marco, che dobbiamo fare roba al picciotto. Cappa, ok, salutami la persona e ci sentiamo in altre occasioni, Natale. Io quasi quasi mi faccio un caffè adesso, magari decaffeinato. Ciao, saluta anche Concetta. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, saluti in casa.